difficile terminare la propria esistenza senza aver emulato qualche persona, sia nel campo religioso sia in quello profano. Spesso attori, cantanti, politici, scrittori e ogni altro genere di persone famose sono emblemi per generazioni e generazioni, mentre nel campo religioso, martiri e santi creano una certa sana invidia in chi vorrebbe essere come loro. Tra i tanti personaggi menzionati nella Bibbia, anch'io ne avrei uno al quale guardare con molta simpatia, e, a parte Gesù Cristo, il quale rimane e rimarrà per sempre l'unica persona da imitare per eccellenza e che non può essere paragonato a nessuno, penso a Giuseppe, colui che in seguito venne soprannominato Barnaba dagli Apostoli, non che abbia dimenticato molte altre persone come Mosè e Elia per l'autorità loro conferita, o Daniele per la sua santità e il re Davide per la sincerità del suo cuore, oppure Pietro per il suo zelo, o Giovanni per il suo amore, ma la figura o il personaggio di Barnaba mi ha sempre attirato in modo particolare, innanzitutto perché quando l'Evangelista Luca per la prima volta lo presenta nella Bibbia, nel libro degli Atti, così scrive: Ora Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio di consolazione, levita, originario di Cipro, avendo un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Atti 4.2-6.37. Già questa prima descrizione mi avvince. Non vengono messe in evidenza le belle caratteristiche fisiche di Barnaba, come invece fu fatto per Davide, che era rossiccio con begli occhi e un bell'aspetto, 1 Sa 1612, o per il re Saul, che era un uomo bello, 1 Sa 9.2. Neppure viene messo in evidenza il suo abbigliamento, come invece fu per Elia, il quale era un uomo vestito di pelo con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, 1 Re 1.8. Né si accenna a come si sfamasse, come invece per Giovanni il Battista, il quale era vestito di peli di cammello e aveva una cintura di cuoio intorno ai lombi e mangiava locuste e miele selvatico. MR 1.6. Niente di tutto questo. Il soprannome Barnaba significa figlio di consolazione, un soprannome non casuale, e che rifletteva una caratteristica particolare del suo carattere. Consolare. Tra le tante virtù che il credente dovrebbe ambire, quella della consolazione è certamente tra le prime, sia perché sono pochi coloro che sanno consolare, sia perché quando uno parla da parte di Dio, cioè profetizza, ha il compito di edificare, esortare e consolare. 1 Cor 14.3. Questo appellativo si rivelerà più che mai opportuno, perché l'opera di Barnaba sarà fondamentale per la Chiesa nel suo nascere e nella sua espansione. Barnaba proveniva da una famiglia sacerdotale giudeo-cipriota e la sua condizione economica non era tra le più disperate. Perciò, essendo in possesso di un campo, pensò di venderlo per poterne dare il ricavato agli apostoli, i quali avevano il compito di distribuire il denaro ai più poveri. Anche questo gesto rispecchia molto bene il carattere di Barnaba, perché il consolare il prossimo non è realizzabile soltanto a parole. Ma, come sta scritto, quando si può lo si deve attuare anche con dei fatti. PR 3.27, 1 GV 3.1618. Ma è quando il neoconvertito Saulo da Tarso, chiamato in seguito Paolo, cercando di unirsi ai discepoli dai quali era rifiutato poiché ritenuto una spia, che Barnaba lo conduce dagli apostoli perché potessero rendersi conto della sua reale conversione e sincerità, che è palesato soprattutto il suo ruolo di figlio della consolazione. Atti 9.2627, un semplice gesto fraterno che avrebbe rivoluzionato la predicazione del Vangelo e che l'Evangelista Luca spiega in questo modo. Ora alcuni di loro originari di Cipro e di Cirene, arrivati ad Antiochia, iniziarono a parlare ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e un gran numero credette e si convertì al Signore. La notizia di questo pervenne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, ed essi inviarono Barnaba perché andasse fino ad Antiochia. Quando egli giunse, vista la grazia di Dio, si rallegrò e esortava tutti a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore, perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. e un gran numero di persone fu aggiunto al Signore. Poi Barnaba partì per andare a Tarso in cerca di Saulo e, trovatolo, lo condusse ad Antiochia. E per un anno intero essi si radunarono con la Chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente. E, per la prima volta ad Antiochia, i discepoli furono chiamati cristiani. Dunque, il messaggio del Vangelo iniziava ad essere accettato anche da coloro che non erano ebrei e Barnaba, resosi conto che nella città di Antiochia si era formato un gruppo di credenti e che occorreva una guida spirituale adatta per loro di formazione culturale anche greca, andò a prendere Paolo nella sua città e lo condusse ad Antiochia. Evidentemente Paolo aveva un insegnamento molto diretto e preciso, perché subito gli increduli compresero che i credenti avevano confidato in Cristo e iniziarono così per la prima volta a chiamarli cristiani. Cosa può fare la scelta giusta? Nel mettere l'uomo giusto nel posto giusto al momento giusto. Non a caso Luca definisce Barnaba un uomo buono e pieno di Spirito Santo e di fede. Ormai Barnaba formava un meraviglioso tandem con Paolo. Lui stimava Paolo, il quale a sua volta aveva capito che Barnaba era una buona spalla. Non stupisce quindi quando lo Spirito Santo disse alla Chiesa di Antiochia di eleggersi due uomini per portare il Vangelo altrove, che la scelta cadde proprio su Barnaba e Paolo. Il libro degli Atti racconta alcuni episodi del giro missionario eseguito da Barnaba e Paolo, traccia con quale armonia lavoravano assieme, ma quando tornarono ad Antiochia e Paolo propose a Barnaba di ritornare a visitare i credenti appena convertiti, nacque una cosa impensabile, un forte disaccordo. E, come spesso succede tra credenti, non un disaccordo su questioni importanti, ma su come gestire una situazione, se prendere con loro il cugino di Barnaba oppure no. Non si misero d'accordo e alla fine si separarono, ognuno prendendo una strada diversa. A questo punto Barnaba non è più menzionato e Luca si limita a raccontare solo gli eventi, in relazione a Paolo e a Silvano, chiamato Sila, che all'inizio sostituisce Barnaba al fianco di Paolo. Ma del suo amico Barnaba parla nelle sue lettere e in termini sempre positivi, mettendo in evidenza la stima nutrita per lui. Anche questo è un bellissimo esempio di come dovrebbero terminare le varie questioni che sorgono tra i credenti. Si può non essere d'accordo su aspetti di poca importanza, ma senza farne delle ragioni per una divisione. Perché quando diventano tali, significa che nascondono dei presupposti morali di peccato, come la vendetta, la rivalsa o l'odio. Dio non vieta la separazione per seguire la propria coscienza, vieta le divisioni, il che sono tutta un'altra cosa. La divisione è una separazione dopo la quale si mantengono rancori e altri sentimenti negativi nei confronti del fratello. Una separazione, al contrario, lascia intatto il rapporto di amicizia e di stima precedente. E con un simile rapporto nulla impedisce in seguito di rivedere le cose e ritornare a collaborare. Come del resto è stato molto probabilmente tra Paolo e Barnaba, perché nella sua prima lettera ai Corinzi, scritta durante il suo terzo viaggio missionario e quindi dopo la separazione, l'apostolo Paolo, nel citare Barnaba, riporta che lavoravano assieme con queste parole: «Non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie, sorelle in fede, come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa. O siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare?» 1 Cor 9.56. Per l'omissione di Luca riguardo a Barnaba, nel libro degli Atti dalla separazione in poi, occorre guardarsi dal costruire certezze sul suo silenzio. Forse l'episodio più delicato e responsabile di una frattura definitiva tra Paolo e Barnaba lo troviamo narrato dallo stesso Paolo nella lettera indirizzata alle chiese della Galazia, un distretto dell'Asia Minore. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, gli resistei in faccia perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche. Ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi, e anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Gal 2.1114. Questo episodio è stato certamente uno dei più gravi della cristianità nascente. Una delle tre colonne del cristianesimo, Pietro, Gal 2.9, e il più grande missionario del Vangelo di allora, Paolo, 1 Cor 15.10, ebbero una seria questione fra di loro. Paolo, specialmente ad Antiochia, aveva sempre insegnato con tutta la sua anima che l'uomo è salvato per grazia con un solo atto di fede, mentre Pietro, ancora vincolato nella sua coscienza religiosa giudaica, aveva assecondato alcuni credenti ebrei nell'osservare certe regole religiose per essere resi giusti da Dio. Il messaggio di Cristo veniva così grandemente disprezzato e ne andava di mezzo la testimonianza cristiana, cosa abbastanza grave. A peggiorare le cose era che il compagno di viaggio e collaboratore stretto di Paolo, cioè Barnaba, venendo da una famiglia che osservava scrupolosamente i riti religiosi, molto probabilmente per un atto di debolezza e di troppa consolazione per il prossimo, fu trascinato da questo atto di incoerenza cristiana, seguendo Pietro. Ebbene, anche in questo frangente critico e delicato, l'apostolo Paolo riesce a fare un complimento a Barnaba, nonostante sia costretto a dire la verità dicendo perfino Barnaba. Quel persino, o addirittura, è tutto un programma. Paolo stava mettendo in evidenza la tenacia e la coerenza di Barnaba. Apprezzava la sua fermezza e il suo essere un consolatore per chi si trovava in difficoltà. Perciò, se Barnaba si era lasciato sedurre dall'incoerenza di Pietro, voleva dire che ne era uscita una seduzione molto forte. Stupendo, anche nel momento più critico e opportuno per essere giudicato, Barnaba riceve una lode e un incoraggiamento. Tutto casuale? No. Quando un uomo ha la caratteristica di essere un consolatore, prima o poi riceve la giusta ricompensa, perché se non ci stanchiamo di fare il bene, mieteremo a suo tempo. Gal 6.9. Marzo 2008. Ellero,